praticamente, siccome le uova le fanno uno un giorno, uno un altro, uno un altro, sembra così, ma 2 giorni di differenza nei pulcini sono tanti. Quindi cosa succede? Che la mamma imbocca quelli che alzano di più il collo, che sarebbero i più grandi, i più piccoli rimangono dietro, e se tu non li imbocchi, cosa succede? Che buio, perché non mangiano, mangiano solo quelli che alzano il collo in alto, capito? Quelli piccoli non ce la fanno ancora alzare. E quelli piccolini te li devi prendere, e tu con la siringa andare da mangiare. Io sono andato da diversi allevatori, qua a Sassari tu credi che non ce ne siano, ma ci sono allevatori che hanno, ce n'è uno a Ottava che c'ha praticamente un allevamento di uccelli che è favoloso ed è anche molto pulito, tu vedi queste gabbie proprio perfette, pulite, cosa, è molto pulito, ed è un poliziotto, si alza alle 6 di mattina per pulire gli uccelli prima di andare a lavorare, ma ne ha, c'è, cioè, 3 voliere fuori del cortile, non so se mi spiego, c'è un garage coperto, capito, però rimane aperto sia no, da una parte è chiuso, dalla parte della strada, però dall'altra parte rimane tutto una specie di corridoio e poi va a finire in cortile, nel cortile c'ha 3 voliere tutte piene di uccelli, canarini e bengalini, i bengalini praticamente ne ha anche troppi, li regala le fiere, li mette all'asta, cose, fanno le, come si chiama, fanno le aste per vedere se, per vincere le cose, però lui ne ha un bel, e ce ne ha dentro proprio questo corridoio, c'è tutte le file delle gambe, ma tutte ben sistemate, ha una razza solo, alleva la razza che si chiama Arricchino Portoghese, che io ne ho 2, che tra l'altro adesso c'hanno le uova, c'hanno 5 uova. E praticamente questi Arricchino Portoghesi in continente costano 83 euro, dalle 83 alle 100 euro l'uno. Qua ha detto che non c'è una cultura degli uccelli, quindi li deve vendere sulle 20 euro l'uno, perché non c'è cultura, però il continente, le fiere che fanno il continente costano, c'hanno 5 colori, fatti il conto. Tu è omologato perché non ha il selettore che funziona, capito? L'ho letto su Roger K, accadeva anche per lo 2001, là l'anno 87, quelli sono tutti omologati se non li tocchi, perché se tu li tocchi poi perdono l'omologazione. Sì, però quello omologato va 40 canari Zulu. C'è anche quello omologato, anche l'8001, l'8001 per esempio c'ha 40 canali solo, quello omologato, perché il selettore delle bande non rifunziona, compreso, se tu lo do che ti racciappa ne ducado, so cavoli due. Antonio. Ma ci viene il telefono. Ascoltamelo bene, guarda che ho telefonato fuori, sai cosa mi ha risposto? Di chiamare la ditta e hai capito, e dimmi quale problema c'ha, mi ha detto. Tu, ma ci compreso. Lui non vuol dire, io dalla ditta l'ho comprato, io l'ho comprato da voi, e voi mi dovete dare la risposta, se non me la date io sto rimanendo indietro. E cosa vuol dire la ditta? Cosa vuol dire la ditta? È loro che si devono rivalere sulla ditta, però intanto attenti la dirigiamo se non andate. Io la pare che ho fatto io, ho mollato. Ma come sono andato a tirare fuori? Non lo so, praticamente dice che come quello che ha comprato l'Altarino, il Polman, l'Altarino. Tu, a te, quanto ti dava il Polman? Secondo nel paese dove lo metti, deve uscire IT. Perché secondo in quale paese lo metti, ti esce con un VAT. E l'ho detto anch'io. Ma siccome io, quando l'ho comprato non mi scrive, nulla, la verità si dica, quindi non so cosa dirti. Deve uscire IT10 nel display e c'è scritto che vuol dire Italia canale 10. Se no non lo metti nel coso italiano, cambiano anche i canali, o ti dà solo l'FM invece che la M, capito? Aspetta 2 secondi. Allora, più che altro l'Italia me lo dà, e siamo 40 canali, quindi lì siamo a posto. A un certo punto, quindi sono tranquillo per quello lì. Ah, se vediamo domani mattina, secondo come io lo mando nuovo indietro, se la tocca in culo, lui o apparecchio? A te Natale come esce di radio, con DMV? Fate, non sto usando il DMV adesso, no, sto usando un coso, no, 87. Ah. Appunto, se no ci mancherebbe, lo sai. Io il Pormal ne l'ho tolto, così ne trovano solo questo e buh. E dimmi, Nico. Perché deve essere messo su IT, esce nel display IT da me, e poi il canale, capito? E ti dà 40 canali in AM e in FM, il mio. Io ce l'ho nella scatola, era. E c'ha lo stesso apparato che ho io, e gli dà solo un watt, evidentemente è messo in un'altra nazione. Perché in certe nazioni più di un watt non devi avere. Oppure non puoi avere AM, FM, e puoi avere solo l'FM. E infatti ogni nazione ha le sue cose, capito? Vabbè, no problem, adesso vado e mi faccio la barba, finalmente, perché mi hai messo paura tu. E vai, qua cuomane. Ah, io sono isoscendirucci, boh. Vabbè, vado a farmi la barba, continuate, già vi ascolto. Se no, non esci vincitori oggi. Antonio. Vi ascolto ugualmente, vi sento da cucina, capito? Eia. Antonio, metta lì e ci fa la barba nella pentolina. E mezzo fatto il ritorno subito indietro. E si attenta in culo, si attenta la collina. E ritorno dei soldi. Aggiungo 100 euro in più e se la prendono in culo. Antonio, ma cosa Luca? Ma tu sei il famoso Antonio del mercato? No, sono quello sicuro. Sei Antonio del mercato, una volta lavoravi lì. Questo è quel filo che ho di Tonio Kawasaki. Ma che sono tu io? Sicuro sulla vita, No, e allora tu non sei quell'Antonio che conosco io. Ma se mi ha dato che vai Tonio, la volta che te ne scenda, bella, ma è forte. Va bene. Sono ben forte come parlati. Si sposa bene, ho capito, dai. Tony. Ciao Tony, ho letto. Vabbè, Tony. Ehi, piano, una alla volta, volevo dare il numerino. Cos'è il borso? L'MB più 5 o il Tamer? Il Tamer, cioè tuo. Il Tamer per 3B, non greggio. E cos'è il 3B? Cos'è un Mitra? Esatto, sì. Io ho veramente il tarre, se non ti faccio nulla un video. Mico dico, ho letto me. Cioè, aspetta, non è che lavoravi al mercato, avevi il posto dove vendevi il pesce. Quindi tu non sei Antonio Reserva, che conosco io. E allora sei tu. E il pesce buttato. Era Antonio, ma non era Antonio Reserva. Dove vendevi il pesce buttato? Antonio vuoi andare a finale, ce l'ho 69, via, per altro. Mi pare che era R20, quello è Antonio R20. No, quello era Paragnosa. Poi è tecnico quello, no? L'oppi si vendo. Cosa avevo, la Fiat? L'ho mai avuto. Sì, io sono Antonio Kawasaki. Sono Antonio Kawasaki. Ma tu ricordato Antonio Kawasaki? Mai avuto a due posti. Era rompiballe, lui è per lo drago, mi povero falcone. Casa vostra. Che bastardo, che cazzo. Amore di Falcone. Ma io non so che lo chiamo manicomio, Riccio. No, mandiamo la mandola via. Non sai quanti cantoni ci sono lì? C'è la mia Maddalena. Vedi, mia Maddalena. Via la mai. Mi fonte dove lavorava mio padre. Tu scendevi da lì e c'era meno di mio padre. Comunque, fate scherzi. Come radio va bene mia. Hai capito bene bene? Non vende l'apparato. Uiaia, sono a posto già. Urgia! Acquistalo tu, fregatene, acquistalo cazzo, acquistalo, va bene, acquistalo. Ma è quello Antuca, se è quella la sigla che ti ho dato, è quello. Poi quello c'è scritto nel flat, futti dinni, capito? Frega, ma i colori non è manco originale. Sarà pari all'originale, ma non è originale. Tu ascolta Luca. Che betto lì. Mi dotto, che sto cercando una cosa bella per voi. Ti stavo facendo schietta stasera. Cosa? Aspetta, ti stavo facendo... Non sei uscito. Ti stavo facendo schiattare stasera, ho detto. Adesso sto uscendo, sì. Sì. Meno male. C'ho cazzo questo cazzo di microfono di merda. Mi hai dato la sua Giovanna, quindi... Sono liscio lo stesso adesso, sono con un verbale. Avanti Becker. Santiago Nova, Radio 5, Lupo Grigio, ciao, mi hai sentito per la primiera. Ok, ma sei in Bieme? A casa di Ricca Roma, la prossima attiva. Ah, ok, no, lasciamo bene, dai. Capito già, tu che segnale lo conosci? Io già lo so, a 2009:30 qua. Con la tenna sembrava un giocatore, invece va bene, hai visto? Ehia, ci ho messo poi il palo telescopico a 4 metri, non mi piaceva. Non ho trovato altri 2 metri per innestarlo, ho preso un tubo da 2 pollici e ferro, ma pesanti. Ho dovuto fare il foro da parte in parte e mettere 2 bulloni, convinti meno, poi tutto meno lastrato che non entrasse l'acqua domani se piove, silicone, nastro vulcanizzato, poi un bel lavoro, guarda, anche il tappo dell'antenna sopra, c'è nel palo. Niente, l'ho messo più alto che potevo, ho messo 2 tiranti, grazie a Dio, non pensavo che arrivavo bene così tutte le parti. Tony, ma l'ho messa sul tetto o sul fianco della casa? Sì, l'ho messo a fianco della casa mia. Praticamente c'ho il mezzo tettuccio, ma ho superato il tettuccio alla grande. Cappagatto. Vabbè, dai, già va bene. È una bella zona quella lì, perché rimane più in alto di Sassari dove sei tu, capito? Sì, io vedo Sassari, infatti. Ecco. Avanti, Riccardino. Ok, grazie Gianni, ho sentito a Tonino, non so altro che ci sia, perché sono entrato perché stavo facendo una prova con il K, perché non mi stava andando. Variato, devi fare ascolto prima. Ciao Riccardi, buonasera, dai. Comunque si fa ascolto prima, così almeno uno sa che cosa chi c'è. Anche io lo faccio a volte sbagliando. Orecchie di poco, vuoi fare Riccardi? Ciao, mi hai sentito. Riccardi, non mica sta scherzando. Ho capito, sì, un attimo, è che stavo parlando con Babbo. Saluta anche a tuo padre. Saluta anche a Babbo. Saluta Babbo. Ehi, mi sta chiamando adesso, un attimo che gli risponde attorno. Ehi, c'è Lupo Grigio, avanti Lupo Grigio. E Riccardo si è allontanato, l'ha chiamato il padre. Avanti, antenna riserva. E parla, no, sono qua, lo sappiamo se lì. Un apparato con c'era Gianni. Ma tiro, non lo so, di nulla c'è una piccola carica. Lei 5 ottavie. No, l'ho presa nuova la CBC sta qua. Me l'ho pagata, ma l'anno scorso l'ho presa. 90 euro. Io stavo cercando la massima 1, ma non l'ho trovata. Già con quell'apparato nuovo che è arrivato, che non ne compra minuta. Compra sempre dai cinesi. Ci mancherà poco che venderanno anche questi apparati, come vedono che c'è commercio, anche i cinesi ci danno da fare, vedrai che i negozi di apparati e roba generi lasciamo perdere, andiamo dai cinesi a comprarci i pizzi. Tanto mi sono trovato un'antennina a base magnetica, piccola, piccola, sarà, se sarà un 6 o 7 centimetri. Piccolina piccolina, caricata con la molla, adesso non so di che cosa sia, se è per VHF, se è per la 27, non lo so, piccolina piccolina. No, è di apparati, forse è del PMR, non lo so, non mi ricordo dove, non mi ricordavo manco di averla. Stavo mettendo a posto un alimentatore riuscivo a metterlo sulla coletta, che cavolo c'è, sono salito su e ho trovato questa antenna che era dietro, faceva avanzare la scatola dell'alimentatore, capito? Ho preso, guardate c'è base magnetica, è bellina veramente. Sì, c'è quella già, c'hai 3 radiali, la carica, sì, Midland Energy. No, prendi quella 5 ottavi che è migliore. Cattesci un bel mese di Torino, per le parti lo sei. Boh, circa 7 metri, vabbè, se 6 metri qualcosa. E come la mia è? Ehi, è leggera, leggera. Presente ce l'hai, la BA27L. Così. La Energy è così. A me da campagna mi si è frasigato l'UBL femmina di l'antenna e me ne farà drugare in terra con la BA27L. No, io ho messo un po' di grasso intorno e poi ci ho messo anche il nastro vulcanizzato e il CPL. È tutta bella coimentata. Dite, idem come sopra, anche io l'ho tutta commentata col nastro vulcanizzante e più l'ho messo il nastro adesivo sopra per tenerlo ben in tira. No, ma il nastro vulcanizzante già lo metti in tira e si salta. Il nastro normale già, fuori con il sole si stacca. Lo so, però io il nastro normale lo metto per tenere bene in tira il vulcanizzante, lo metto solo per tenerlo bene, no? Per tenerlo bene attaccato. Poi quando si stacca si la mille luci, non me la può chiudere, il suo lavoro l'ha già fatto. Ma io quando metto il nastro vulcanizzante e tu lo tiri e lo avvolgi, si scalda automaticamente e si incolla, capito? Rimane il corpo unico. Avete parlato in due, Gianni con Antonio. Ah, e ci copriva? E quanto era il segnale, guarda. E perché io meno di nuovo e ti ha detto? Ah, cappa, quindi vabbè. E se invece tanto tu lo metti il nastro normale su quello vulcanizzante per tenerlo in tira, quando metti il vulcanizzante lo metti l'altro nastro per tenerlo in tira. Si vede che non ne usate voi di quel nastro lì, ne usate poco. Io ti faccio vedere che non uso niente, soltanto il nastro vulcanizzante e tu non lo stacchi più. Ricordati, quando tu lo stiri e lo avvolgi, si scalda automaticamente e diventa corpo unico. No, come lo faccio io? Innanzitutto quando lo metto lo lascio riposare, se lo metto in mezzo all'acqua lo lascio riposare un bel po'. No, al vulcanizzante, no. Ma io se devo mettere una pompa sommersa, devo fare un attacco, rimetto una bufala con un bicomponente e vedrai che lo lascio asciugare e lì non ne va tenuta. No, lì è una cosa professionale, si fa così, si mette il nastro vulcanizzato e poi uno lo fa come vuole. Antonio fa questo lavoro, cazzo, non, e lo puoi insegnare a lui. Antonio piatta antenne, fa queste cose qua. Così, Tony, è così, non insistere, tutti lo mettono. Magari tu fai così, però professionalmente si mette. Gianni, sappi una cosa, che io in tutte le scuole di Sassari superiori ci lavoro sui lampioni esterni e quando piove l'acqua entra lì. Ormai stai descando qua. Aspetta che passo mai che lì. No, questo è lo sviluppo, stanno a casino. Mi sapete mai che normale, dai. Capito? Uso quello lì, vulcanizzante, mai messo l'altra isolata normale. Sono tornato. E infatti sono tutti spinti da più. Avanti, Riccardo. Eia, ho cambiato apparato. Come mai? Li devo far girare. Sì, non è atteso ma con 5 minuti, isso. Non sei entrato, si può dire, sei entrato e ti ha chiamato tuo padre. Cosa l'hai fatto girare quello là? Perché mi ha detto cambiati apparato che stai sempre usando gli scappa, usa anche un po' gli altri stati di base. Oh, questa qua c'è una voce chiarissima e va benissimo. Questo qui che cos'è? Il Colt con l'MB+5. L'ha arrivato te? Che cosa è arrivato? L'MB+5. Sì, ne ho due. Quello di Fusano ti è arrivato? Sì, ce l'ho ancora in scatola e non l'ho manco aperto. Scappa. Questo qui va benissimo, guarda, con questo, con il MB+5 ti fa una voce chiara, chiara, bella, non è amplificatissima, però è bella. Sì, confermo, Riccardo, perfetto. Eia, cosa? Quanto costa? Io l'ho pagato 78. Te l'ho regalato io anche quello lì. Eia, quello che ti ho fatto io era nuovo, nuovo, mai usato. Te l'ho girato a regalo, che pensavo che costava 50 euro, se non avessi saputo non avrei venuto a quel prezzo. Si effettua uno scambi per MB+5. Mica, Riccardo sta facendo a Portobello. Avanti, Lupo Grigio, avanti. Riccardo, lo senti a Lupo Grigio? Sì, lo tiro un po' fuori così, ma lo ascolto. Lupo Grigio, se ti può interessare, sei Santiago 3, Radio 2, qua. Prego, prego. Avanti. Santiago 7, lo pomeriggio. Tony, io te la metti sopra la macchina l'antenna. Santiago 5 è qui. Ma Tony, te la metti l'antenna sulla macchina? No. E perché? Anche oggi fa ridere il pollo io. Oh, io me la volevo mettere, però sta sparendo. non so più cosa fare, se spendere questi soldi o no, perché costano un po' mi queste antenne, ma le negozi chi sa meno rispetto ai 64 euro. Gianni, lascia perdere tutti e dimmi, non è come una volta, capito? Ma è tutto diverso. Guarda che io sino a poco tempo fa ce l'avevo l'antenna sulla macchina, anzi sono stato il primo dopo che ha cominciato tutta la maratona di nuovo dopo 10 anni che non c'era più nessuno, abbiamo ripreso io, Natalino, Claudio e qualche volta entrava Gian Maria con la buona anima di Mario Mao. Io avevo un'antenna sulla macchina, c'avevo la Turbo 2001 ed era, c'era 747 la Turbo 2001 e quell'apparecchio che volevo vendere a te e poi tu non hai voluto quello lì, è arrivato una nuova alti e bassi da portatore, si arrivava l'UV5 a Sassi. Gianni, e io? Ma pensa tu che dici che sei un po' indeciso a mettere l'antenna, non mettere l'antenna perché non c'è più nessuno. Pensa io che sto ancora comprando baracchini, quando non ci sarà più nessuno cosa me ne farò? Che fa la collezione. Riccardi, auguriamoci che non sia così, auguriamoci che la gente continui a restare, che si comporti soprattutto bene, che non mettano portanti perché stanno arrivando veri portantisti. A chi in mezzo all'AFI le muro la mondezza. Ma la comuro. Bisogna far entrare Falcone. No, Falcone la sorella non vuole. Noi volevamo fare la colletta e comprare tutto e la sorella non vuole. No, la sorella non vuole perché se lo porta appresso, lo posteggia a parte e va a giocare con le macchinette. Ma se, chi è che va a giocare con le macchinette? Falcone. La sorella. Ah, cosa c'è? Il vizietto delle macchinette? Sì, e il marito mezzo macocco a passeggio in giro la faccia all'acqua. Falcone è usato. Tu vai a Carrefour sopra, dove c'è lo slot e lo trovi la sera, va messo, è chiuso per coronavirus. Scusa, io dico questo, scusando la frase. Anziché la parte di là, scusa, perché non comprare giù con baracchino a Falcone? No, non vuole, perché lo guida in giro, da voi lo vado ad incazzare e cose. Tu pensa a questo poveraccio che l'unica cosa che c'aveva era il baracchino per svagarsi. Adesso non va mai qui, sarà in paranoia, starà aspettando a invecchiare, cazzo. Boh. E lascialo accontentalo, poverino. Già non le facciamo niente. A me mi mangiare di Piero Drago, cazzo, tutto quanto calmo. Ma io Falco, dai, vattene a dormire, mangiati un brodino di marmo e vattene a dormire. Adesso Piero Drago mi blocca e poi. Mi ricordo un particolare io. Ha fatto incazzare Piero Drago a Falcone. Talmente incazzare che Falcone si è sgolato. È entrata la madre. Non so cosa l'ha detto Piero ha detto, guarda signora, se vengo lì, scendo le mutande e faccio scolaccio lì. Scendo le mutande? E lo scolaccio lì. Quindi vabbè, quello era rispettoso, non era bello. Una volta tra te e fratello ha detto che se continuavamo a farlo godere così, veniva qualche infarto, dice che se aveva fatto non so quante pippe al giorno. Ah, capo. Andava, dai, vabbè, comunque, è stato uno della storia della CB. Che l'avete rovinato? Io l'ho sempre trattato bene, Sì, sì, dici, poi le fammi gioco della calzetta. Quando si è fatto, come si strippini? Riccardo, riprendi. Ehi, la riprendo io, continuate. Ah, questo ci sta dicendo e basta. No, stavo risolvendo un problema, ho avuto un problema circa di al capo al frequentimetro e stavo sentendo uno per aggiustarmela. Perché mi è successo e stavo vedendo e così stavo chiedendo informazioni su che cosa fare, l'ho resettata e adesso stava andando bene. Ascolta, cosa c'hai? 4.40? No, il 4.30. L'hai comprato a parte? Fuori l'ho comprato. E cosa ti sta facendo i puntini nel frequentimetro? No, praticamente si è azzerato il frequentimetro. Quello è il 4.40. Esatto. Sì, vabbè, io non ne ho avuto. Quello dei puntini su 440 è il problema al VFO. Hai visto quanto messaggio in cabina? Beh, l'ho registrato, adesso sta andando bene. Mi ha detto che la devo provare, adesso faccio una prova. Ma hai chiamato il proprietario? No, ho chiamato un radioamatore. Ah, ho capito chi. Hai capito allora? E via. E come mai ha fatto questo difetto? Mi ha detto con radioamatore, cioè da molto sono così che queste... vecchia, questa come ho detto non è neanche tempo del trio, è proprio il marchio vecchio e l'hanno usata poco, l'hanno un po' trascurata e così da questo problema. Anche questo, un'altra radio ha dato questo problema. Vabbè, dai. Speriamo bene, dai, che non lo facciamo più adesso. Avanti, Tony. Ehi, sono sempre qua che faccio parlare Riccardino, che l'ascolto, ogni tanto c'è dei problemini, e meno male che lo risolve. Come mai di giorno, Tony? Hai detto che non ne trovi più di giorno? Perché oggi non sto facendo niente. Io domani non entro, per esempio, ho un metro cosa da fare. Mi voglio riposare perché mi è tornato il dolore dell'edina del disco, capito? Quando mi è dolore mi appoggio un po' al letto, mi appoggio. Sì, mamma mia. Deve essere tremendo. Una volta mia suocera si è inchinata, non riusciva a piazzarsi, l'hanno dovuta portare in ambulanza così. Inchinata com'era, si è bloccata. E io guarda, ho il 10 da una visita, devo fare la risonanza magnetica lì a Platamona. E al centro benessere e poi con la risonanza magnetica devo andare da questo fisioterapista che deve chiamare questo professore di Cagliari, mi deve dare appuntamento, scendo giù e mi fanno una lezione alla schiena per rimpicciolirmi così la linea del disco, poi vediamo se è vero o non è vero. Sì, questa operata è basta, proprio perché ho un amico che se l'ha operata due volte per il ricrescito, lo sai. Io non posso operarmi. Ah no? No, sono cardiopatico. Ma non te ne fanno di operazioni a te, essendo cardiopatico? Non me ne fanno, me l'ho già detto. Che cardiopatico sarà molto difficile. E infatti voglio provare questa lezione, voglio provare io. Io prendo anche già una pensione, più sto lavorando, l'altro anno vado in pensione. Se ho 75% di validità, io se voglio vado già in pensione. Ecco, adesso sto provando il K. E da qua non si scappa. È vero, non si scappa dal K. La modulazione è bella compressa, eh. Lo so, però mi hanno detto di usarlo, che sennò era peggio. Allora, vuole fatto scaldare, vogliono fatto scaldare quegli apparecchi, perché sennò ho fatto i componenti. Vuole usato, cosa come vuol dire? Se bisogna farlo scaldare, nel senso che se rimane spento e freddo, quando sta funzionando si scalda, no? Sentire il QRM, devo riportare il tutto di nuovo, il cavo e tutto quanto, nella mia stanzetta modulatrice radiofrequenza. E vabbè, l'eterno per bellezza questa roba che c'ho. No, lì. Sino a poco fa stava comprando l'antenna, ma rimuovendo il tutto, ma ce la fai a ragionare come cristiani. E io, ma è che c'è Riccardo, la sorta di adità. Antonio beve il latte di suocera. Antonio, non sai cosa dire proprio stasera, stai sclerato. Avanti Riccardo. Io vado avanti io. Ma vero, per chiederti, scusa se mi sto annoiando, era per dire, cambia molto il segnale da un apparecchio a questo qua. Parla a vedere. 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova radio. Prima ero con il Colt, adesso con il K. È nausea prima con la voce. Colt non ho guardato, Riccardo. Con questo sei 9.30, sul più del 30, sì. È nasina la voce con questo, l'ho detto io, e qualche uno mi stava correggendo, ho no, sì, Dio, è di la verità. Sì, ma giustamente, prima l'ho sempre sentito bene, ma quando ho cambiato il microfono ha detto il nasino, guarda. Allora, con l'altro apparecchio si è molto più chiaro di radio, questo qua rimane più compresso, non esce male, non è nasina, quindi è un po' compressa, dai, è compressa perché c'è la potenza dell'apparecchio. Riccardi, metti la portante e qualche secondo non parlare. Sì, rumore di fondo oppure che c'ha. E ce lo porto a prezzo. Il rumore di fondo è il mio super alimentatore. Ti avevamo detto pure di spostarlo. Lo sposto, non sono 35 metri di cavo, non è che posso spostarlo qua. Non è che ho tutta questa disponibilità a spostarlo. Ma sono 5-6 metri, 4 metri fuori capo, non è, ci vuole molto. Se ti porto tutta questa roba a prezzo. Vedi, una buona idea. E c'è un dunque, c'ha un po' di effetto nasino, dai, poco a poco non ce l'ha. Io con l'altro microfono sentivo perfettamente bene la sua voce, dai. Non lo conosco, però ripeto, la voce di ragazzino si sente. Dimmi tutto. Cosa? Roger, c'ha un innesco 9-20. Basta metterla. Prossimo momento. Mi innesca pure a me, porta Resilia. Sì, ma io ho aumentato il microfono, non è che sto aumentando altro, non ho altro. Il making lo devo abbassare e un po' anche il microfono. No, non sta innescando. Ma io mi sento nelle cuffie, me. Se innesco io me lo sento. Adesso non sto innescando. No, quando è attaccato, è innescato. C'è che fare qualcosa allora. Va bene, dai, io ne approfitto che prima del cortile devo fare un po' di roba, dai. Signori, ci sentiamo più tardi se ci siete, se no. A domani. Ciao a tutti, buonanotte. Buonanotte anche a te. Buonanotte anche a te, Tonino. Grazie Riccardi, ciao ciao. Riprendi già, ciao. Gianni sei andato a magna. Io riprendo. Sì, riprendo. Perché quel matto di Gianni non risponde quando si chiama. Gianni! Antonio, sto usando il Mac normale, come mi senti? Vabbè, non hai amplificato, il Mac è normale, è originale suo. No, secondo me già va bene. La radio, volevo sapere tutto qua. Ok, dai, continuate, ciao. Ok, nel suo microfono originale comunque. Va bene, lo proseguo, ci sentiamo, ciao ciao. Ciao ciao, Tony. Tutti spariti sono, tutti. Gianni sta dando da mangiare agli uccellini. Breccele, breccele. Avanti, breccele, breccele. Ciao Riccardino, ciao Antonio, chi c'è poi? Sono tutti scappati, non sappiamo neanche noi. C'è Gianni, Luca e Natalino che non si sa che fine hanno fatto. Scappati via, dai. Ok, dai, che argomenti ci sono oggi? Sono come entrati, come c'è, quando c'è un passo nato, dai, cercate di svegliarvi. Eia, oh Roberto, vero, te l'ha fatta vedere babbo quello che ha comprato, che deve prendere. Ma me l'ha accennato, ma l'avete già preso o dovete ancora decidere? Domani, in questi giorni, no, non domani, in questi giorni fa la ricarica. Quindi è già confermato? Sì, positivo, già confermato. Perché c'era quell'altro, quello di Cagliari, la zona di Cagliari, quello è superiore. Come apparato il prezzo era più o meno, anche se il prezzo che lo state prendendo è abbastanza ragionevole, dai. Però quell'altro si poteva considerare da un apparecchio un pochettino più sofisticato. Mandami il link se vuoi, se no vabbè lascio stare. No, è perché babbo ha scelto quello perché si fida anche molto dei friulani e perché ci ha parlato, un bravo ragazzo, cioè come di un bravo ragazzo, e quindi niente, gli è anche piaciuto il prezzo. Sì, no, già è buono, il prezzo va più che bene. Però c'era quell'occasione, scusa il monopolio, tanto, c'era quel prezzo, forse leggermente più basso del mercato, 2,99, quello 7.100 è un prezzo assolutamente conveniente e c'è un bellissimo apparato. Meglio anche di quello che stai dicendo tu. So che mi fosse altro non lo conosce, 9.600 lo conosce tanto il ricevitore. Sì, sì. Da quello è tipo un baracchino sembra. No, non è piccolino, è abbastanza grandicello, è un po' più piccolo del 43. Ho capito, quello l'ha visto, gli è piaciuto e quindi niente. Però anche secondo me era bello. Oh, lo sai che mi aveva dato problemi di scappa e l'ho risolto, l'ho resettato. E che problemi ti ha dato? Mi ha dato il problema a quello di Fabrizio, che si era aggirato il frequenzimetro, poi l'ho resettato e è andato bene. Ok, meglio così, dai. E a cercare di tenerli sempre attivi questi apparati, soprattutto quando sono molto vecchi, è sempre bene tenerli accesi in modo che si stabilizzino. C'è qualche componente può andare in perdita se lo tiene troppo spento e poi magari non gli dà quello che deve dare, soprattutto i condensatori. Ok, cosa volevo dire? non c'è nessun altro, adesso lasciamo un attimino di bianco se rientra qualcuno, attenzione ai 10, compagnia di Roberto, Antonio Riserva e Riccardino Alfa 21, chissà perché mi stava venendo Alfa 1, con il Natalino, avanti che vuole entrare. Ah, ma tu il laboratorio ce l'hai sempre, che fai lavoretti per conto tuo e boh. Io, ma c'avevi anche misuratore di campo, anche misuratore di campo era, che cos'era, ma satellite o solo terrestre, che cos'era, che banca era? Ah, bello, belli apparecchi, diciamo, ma già ancora già quelli a cristalli liquidi o quelli ancora col tubo? No, io so, io ne uno, me ne ha dato un amico, un Promax, però è ancora a tubo questo, fa satellite e coso, e infatti da 25 arriva fino a 12.000, adesso non mi ricordo quanto arriva, fa tutto quanto, però ormai è superato anche quello, le avevo messo le batterie qualche anno fa, siccome è rimasto un bel tempo fermo, adesso ci vogliono di nuovo le batterie, infatti l'altro giorno ho provato a ricaricare, ma non c'è stato niente da fare, no, un uomo ce l'aveva lo stesso con l'amico e l'ha dato poi a Gavino l'altro, lo conosci l'altro, come si chiama, che c'è un laboratorio, eia, però era sempre al tubo, all'epoca quello era un signor apparecchio grande con la stampante eccetera eccetera, ormai fanno ridere quei barrasoni grandi eccetera, però quando è uscito negli anni 2000 era uno dei top di gamma del coso, della una ombo che stava a fare roba di 9 milioni, una cifra esagerata. Che manca M adesso? Avete entrato? Sì, io già. Ah, scusa, aspetta, vabbè, avete parlato, scusa già, che stavo dicendo delle informazioni, ciao già, ben sentito, che macchina è il misuratore del campo? Era probabilmente come quello che tu dici, c'aveva anche la stampante dei grafici, eccetera. Sì, ho capito. E quello che c'è adesso invece che cos'era? Era quello a pistoli liquidi. Io ne ho comprato uno questa Natale, mi sono fatto il regalo, però fa solo SAT, quello lì, di quelli piccolini nuovi, di nuova generazione, però lo uso anche per fare altre cose. È carino, dai, piccolino, quelli palmari, niente di più, c'ha soltanto il campo, non ha neanche l'analizzatore di spettro. Lo prenderò un altro, c'era un'occasione e l'ho preso, diciamo, per fare allineamenti così veloci, va bene. E c'aveva anche l'analizzatore di spettro, ma è radiofrequenza. E allora è come il mio, uguale, ti puoi guardare anche la televisione, puoi utilizzare, c'è anche il telecomando, te lo puoi portare anche appresso per dire se c'è un camper o cose così, di fortuna tipo il coso. E dimmi ancora, l'analizzatore di spettro cos'era? Beh, quello sto dicendo, infatti per radiofrequenza, che cos'era, che marca era? No, lo so, no, è grande Marco, quello l'hai fatto fuori l'analizzatore di spettro. Ok, dai, facciamo riprendere la Gianni che era in parcheggio avanti già. Era ora, c'era Vidosi. Dai, sono rientrato, sono andato a prendermi le pastiglie e sono rientrato, dai. Torino, ci sei ancora? Bianco, te la faccio. Grazie mille, la sirena. Ehi, va bene, dai. No, volevo chiedere se c'era differenza tra questo apparato e l'altro di segnale. Invece, vabbè. Come sta uscendo questo, Antu? Questo qua è il coso. 3009, dai, 3009 con l'MB più 5 elaborato da me Luca. Capo, e con tutto ci sono le ventole attaccate vicino, perché c'è un alimentatore che ha le ventole e sono attaccate. Oi. E vabbè, dai, ogni tanto li faccio girare tutti. Faccio girare così almeno le tensioni attraversano tutti i componenti eccetera eccetera, o scaldano come meglio dire. E non sono cazzate così. E niente, quando scaldano gli apparecchi vuol dire che non servono molto, perché solitamente devono dissipare il calore, quindi non è che devono scaldare molto. Cavagala, e vabbè. Già va bene, questo abbinamento va benissimo, dai, ho trovato la capsula sua, meno male, no, non è vero, c'ha il ponte, in più c'ha la capsula, quella di quelle verdi di citofono, e il cavo di quelli morbidi, cambiato anche il cavo. Allora, praticamente, hai visto dove tu fai le saldature? O è verde o è marrone, questo qui è verde invece che marrone, c'è color marrone e color verde, proprio dove ci sono i punti dove fare le saldature della capsula. E la batterita è colorata, è di o di verde o di marrone, quelle verdi sono le migliori, sono quelle di citofono che vanno bene, e invece quelle marrone sono di quelle normali, che mette anche le BB più 5 quando te lo danno. tutto di qua e metti l'altra, capito? E rende molto di più il microfono. Vabbè, tu che sei un tecnico guardi differenza, noi per riconoscere guardiamo quando è verde e quando è marrone, e sappiamo quella che, capito, va meglio. Per distinguerle noi guardiamo se è marrone o se è verde, capito? Quelle verdi vanno sempre meglio. Quella lì può essere o marrone o verde, capito? No. Sì, c'è, sono quelle del citofono, oppure sono quelle, presente quei telefoni Sirio che c'erano prima, quelli bianchi. Quelle lì vanno bene lo stesso, le capsule. Sì, te lo faccio io un regalo, se vieni a casa te lo do io di quelli muri. E il cavo spira là. Ho capito, come si fa la gomma a piuma anche. In Sassarese si dice magnurati. Allora io di capo ne dovrei avere uno con l'attacco a quattro punte, già fatto l'attacco con lo spinotto pure. E mi sembra che l'ho visto, un capetto così. Lo sai cos'è? Che secondo dove ne messi c'è umidità e cose si rovinano, perché io ho apparati, cazzo, che ce li ho anni e non mi si è rovinato mai il cavo. Cioè io ho, per dire, il cavo originale del coso, del Saturnecco, che era ancora infilato dentro con la plastica, visto dove mettono i microfoni, con la plastica lunga, era infilato lì e lì è rimasto, l'ho usato un paio di volte quando l'ho portato, perché mi aveva fatto un difetto, te l'avevo detto, se me lo facevi tu, ho detto che non ne stavi più facendo, ed era una gattata, costava 25 centesimi rispetto a che ci volevo. L'ha cambiato, me l'ha cambiato Fabrizio e gli ho dato il microfono normale per provarlo, capito? Non lo so. Vabbè, prima io sapevo che li facevi, me ne hai fatto anche di apparecchi, mi hai messo a posto degli apparecchi, quindi io sapevo che tu li facevi, poi non è più fatto, forse non ti conviene, ti conviene più fare altre cose. Costava 25 centesimi, penso che ha cambiato, ce l'aveva Fabrizio, me l'ha cambiato gratis. Costava 25 centesimi adesso, costava una fessilina. Vabbè, ok. Anche Vittorio prima li faceva, poi ha smesso, adesso di nuovo qualche cosa la sta facendo, però ha troppo lavoro, devo stare aspettando troppo tempo, un casino. Ci dovrebbe essere però un tecnico che aggiusta queste cose, visto che ci siamo, ci dovrebbe essere anche un tecnico che aggiusta anche baracchini. Invece non ce n'è qua a Sassari. Il continente vi trovi nei negozi, addirittura i tecnici ci sono dentro all'interno del negozio, tipo la tecnocomunicazione a me mi diceva: che microfono ti serve? Questo, che attacco c'è? Che apparato c'hai? Dicevo non lo da parte, ma non andava già con l'attacco fatto pronto per mettere nell'apparato, senza pagare una lira. Capito? Sì, Fabrizio è anche molto bravo, però lo fa per hobby, non lo fa per lavoro, il suo lavoro è tutta un'altra cosa, lo fa per hobby perché gli piace, ma non è che si può riempire di apparati, cazzo, che poi non c'ha tempo per fare le cose sue, è un casino, là. Se uno lo fa per lavoro, deve dedicare anche il tempo libero a altre cose. A me un po' mi dà fastidio perché diciamo che non vuole mai niente, quindi mi dà fastidio. Nello stesso tempo però so che c'è solo lui, il capo, le disturbo sempre a lui. Sì, infatti, è così. Sono rientrato. Va. Ok, chi c'è? Antonio, tu e poi chi è rimasto? Io, tu e Rosso. Ma Riccardo si è andato a mangiare. C'era questo problemino con il capo, ho sentito. Ma l'hai mai sentito questo difetto, Antu, che devi resettare e spegnere l'apparecchio, eccetera? Non possono essere batteria tampone. Pensavo fosse un po' più robusto, c'era una settimana neanche questo baracchino, mi dispiace infatti se c'è qualche problemino, però questo fatto di resettare, perché stavo pensando anche magari sottoalimentato o sovralimentato, magari infatti ho detto regolati, ho pensato di regolarsi anche le tensioni, verificarsi le tensioni dall'alimentatore. Come? Ok, purtroppo sono apparecchi vecchiotti, possono crearti dei problemi. Addirittura non è mai stato neanche modificato, quello infatti esce con 15 watt, 20 watt in AM, hanno fatto delle prove e non ricordo, il carrier non legge, non regola la potenza, in FM già la tira fuori, in AM niente. Ma te potete, se dobbiamo più rimanendo ferme le macchine, con pochi chilometri che quelli che ne hanno fatto centinaia di migliaia, è capitato anche a me, clienti con macchine, motori, cacchio, indistruttibili con 600.000 chilometri, e altre con 20.000 chilometri, cacchio, guarnizione attrezzata, frizione bruciata, eccetera. E, purtroppo poi componentistica elettronica, diciamo, se non mettono componenti di qualità, molte volte devi tutto ricostruire, ci sono tante cose, basta avere potenziometri eccetera eccetera, dopo un po' di tempo inizia a sentire scricchiolii e cose strane, già lo sai meglio di noi visto che hai avuto esperienze tu con queste cose. Vediamo se Riccardino è rientrato. Avanti Riccardo, speriamo che non ci rimanga male, mi dispiace perché era entusiasta di questa radio, di altro che aveva prestato Fabrizio, andava all'inizio bene, poi di colpo tu è scomparso il display, speriamo che con questo non sia la stessa cosa. Yara, io riprendo, vi sono tutti cordialmente, che vanno a portare giù il cane, dai, vi faccio da mangiare, vi porto l'uomo giù, dai. Ci sentiamo ragazzi, statevi bene, non so se poi rientro, forse mi vado un po' di televisione, io sto parlando in radio, a casa già rientro, non so con il maco con il azzardo. Grazie, grazie, se no dammi la ghiaccia. Oh già, oh già, dimmi lui. Mi sa che, allora mi stava dicendo il veterinario che il prossimo vaginale viene il cani giovani, non i cani vecchi. E allora è un tumore? Si presume che sia un tumore quello, sì. Cerola. Mi fa che al vomiti non ha mangiato niente oggi, stamattina gli ha dato la pastiglia, l'antidolorifico che mi ha dato lui. Poi è stata a vomitare dopo un po', non poi se c'è la pastiglia perché ho iniziato da lunedì a dargliela. Oggi non ho mangiato niente, ha bevuto, sta di continuo pisciando, poco, diarrea e vomiti, tre volte mi ha vomitato. Vabbè, magari si riprende. Non è detto che anche a te sono successo, guarda, vomitava e cose della gastroenterite. Dove se l'ha presa poi non lo so, che se mangia sempre fetti di pollo, pasta, non mangia porcherie, le cose a cavoli devo fare. E ho speso una barca di soldi, ci ho speso 120 euro di medicina. E io ci ho speso 120 euro di visite. Grazie. Vabbè, pazienza, è a Casciada, va, sarà con mamma. Non mi è abituata lì, stai con mamma. Aspettiamo quando rientriamo là, se oggi non l'ho mangiato, se lo mangio anche domani vuol dire cosa è fatta, la frittata è fatta. No, è stato anche teso senza mangiare due o tre giorni, mangiava poco poco, solo a volte niente, a volte solo la carne, la pasta la lasciava, le crocchette le lasciava, però poi si è preso, grazie a Dio. Gli abbiamo dato un integratore per riprendersi e già si è ripreso bene. Barcollava per caso? Barcollava, le zampe di dietro non li reggevano. Riuscì a dirlo, sono un bel a terra, mi dispiace un bel perché sono talmente affezionato. Sì, no, lì barcolla, sembra ubriaca, da quanto ce l'ha fatta prima era bella zilla, bella forte, diciamo. Vabbè, ma io immaginavo che era un tumore, ma non immaginavo, ma era strano una cosa così. Siccome ce li ha nelle mammelle, e mai riuscito anche lì. Vabbè. Infatti io l'ho detto, mi faceva spendere tanti soldi, se non c'è niente da fare, una puntura, pazienza, no, però farla soffrire, la vogliamo ancora vedere. Vabbè, purtroppo è così, siamo come lui, dai, quando si ammalano è un casino. Purtroppo ce li abbiamo, li dobbiamo curare quando si ammalano e quando non si può fare nulla cosa fai? Nulla, niente, dai, non vogliamo monopolizzare, giusto per dirti questa cosa qua, dai, vai, ci devi andare già tranquillo. Allora, ciao, sentiamo, auguri e speriamo che non sia niente di cosa. Ciao a tutti, ben sentito, dai, no, stavo ascoltando per Luca, dai, speriamo bene Luca, dai, vediamo un po'. Robe, casino, non è facile, per chi ce l'ha, sa cosa vuol dire, robe, pazienza. Altro non so cosa fare, l'unica cosa è che gli ho detto di essere sicuri, ma lo so che non siete maghi, gli ho detto, però che uno va di fate spendere i soldi che poi magari non c'è niente da fare. L'analisi del sangue è fatta già. No, adesso devo fare questa visita. Io con l'ultimo cane, dieci anni, non era neanche nata, ma fai 18 anni fa, 19 anni fa, con l'ultimo finito giù di tubo, quello addirittura lo stesso aveva un tumore alla gola, gli ha preso tutto, come se era gonfiata la gola, era già tutto prenotato, doveva andare domani mattina alle 7:30, portaglielo presto, avevano trovato il sangue per fare le trasfusioni, come sono andato la mattina a prenderlo, secco. Spesso ci ha dormito molto la notte, però era grande il mio, il cane mio era grande, aveva 13-14 anni. E questa ne ha 12. Ma sempre quella specie di occhio, quello lì era, che mi ricordo. Sì, sempre quella. E allora so dispiace, infatti ho detto, finito con il cane, prima ne avevo due io, altri tre, quello era il terzo di cane, ne aveva un'altra mia sorella in casa, quello non è mai uscito di casa, l'ha trovato nel cassonetto, vicino al cassonetto, non è mai uscito mai, in vita sua quel cane l'ha portato a casa, doveva andare, poi alla fine si è affezionato, l'ha tenuto 16 anni, non è mai uscito, ma neanche a muoversi, però era un cristiano quel cane, si pigliava Rugafferi, la Varacingo, ma come tutte le persone, poi quando è morta mia sorella aveva fatto un piatto, mamma mia, sembrava peggio di un cristiano, infatti mi ha detto, mai più cane a casa. Non usciva mai di casa, non ne faceva i bisogni. No, c'aveva un angolino, oppure mia sorella lì lo trattava come un cristiano, era piccolino, un cagnolino piccolo, era tipo il tuo, tipo io chissà, però era col pelo corto. Lo so, ti affezione, è normale, lo vedi ogni giorno, cioè vederlo ogni santo giorno, per 12 anni, vedi un po', cioè quante volte l'hai visto, tante volte. Non pensiamo tragici, qua prova a fare una cosa, Luca, ce l'hai le crackers tu? Le? Crackers ne ha? Sì, ma non vuole niente Robè, non vuole né croccantini, né mela, ma la mangiava spesso, guai, non, secondo me no, secondo me è fatta la frittata, comunque vabbè, aspettiamo domani. La prima cosa che devo fare è fargli l'analisi del sangue, lo sai dove devono andare, che sono molto bravi, anziché andare a questi qua medici così, io sono andato alla clinica universitaria di veterinaria, che lì ci sono professori con le contropalle, infatti a me me l'avevano tutto controllato, l'altro non mi gavava nei bidi, ho detto guarda domani lo operiamo, l'operazione è un po' delicata, potrebbe rimanere, ma è arrivato che non è durato, ma non siamo arrivati all'operazione, però se riesce a entrare lì alla veterinaria, parliamo con quella che c'è in via Cosa, e via Budapest, perché ce ne sono troppi di veterinari, ma competenti, Luca, non per dire, non so chi sia il tuo, pochi e pochi, quando sono cose gravi, importanti, è meglio andare d'accordo, dargli una medicina, dargli una aspirina, dargli Ghitro, magari se lo guarda uno che conosce, a me mi era capitato quando c'aveva un problema al cane mio, e Ghitro, questo era un veterinario famoso, l'ha visto il professore, quello dell'università, quello che insegna, ha detto c'ha questo e quest'altro, beh, dagli questa medicina e vedi come guarisce, una settimana guarito. Allora a me è successo che l'ho portato alla veterinaria, dove stai dicendo tu, via a cosa, a Montalepera, guardato l'ari, praticamente il cane c'era del pus dentro l'orecchio, non lo so da cosa era dovuto, comunque gli hanno fatto la visita, tutto quanto, ha controllato, poi gli ha visto anche questi tumori delle mammelle,